Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Io penso che il problema più grave di questo paese sia la fuga dei cervelli. Io trovo stupido che i giovani studino in Italia e poi, una volta formati, facciano la fortuna di altri paesi. E dato che creare i presupposti per lavorare qui è un processo troppo lungo, ho pensato ad un metodo più efficace. Se io fossi Renzi, farei una legge che impedisca ai giovani preparati di espatriare. Certo, io non voglio chiudere i confini per tutti, soltanto per quelli più meritevoli. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Esordio con ironia oggi. Lo facciamo con questo video del terzo segreto di satira dedicato alla fuga dei cervelli. La proposta è ovviamente provocatoria e surreale. Contro la fuga, perché non introdurre controlli alle frontiere? Una laurea e un master nel curriculum? Respinti a casa. Espatrio libero invece per stupidi e ignoranti. Un'idea ovviamente al limite, una provocazione reale in un paese che, lo abbiamo detto spesso, non brilla per livelli di istruzione e che forse trova in questo anche molte delle cause del suo declino. Anno nuovo, vita nuova comunque. Cominciamo a liberarci di alcuni dei peggiori fardelli del sistema Italia, a partire dalla corruzione. La frase della settimana è copyright del presidente dell'autorità anticorruzione Cantone. Quando c'è corruzione e si è sicuri di vincere gli appalti utilizzando metodi illeciti, non si è interessati ad alcuna innovazione. La corruzione è il più grande sistema di blocco del sistema concorrenziale, lo strumento di dumping assoluto. È un sistema che finisce per danneggiare pesantemente i cittadini ed è una delle ragioni della fuga dei cervelli, perché nessuno crede più nella meritocrazia. Così dice Raffaele Cantone. Noi ricordiamo solo come l'Italia, secondo Transparency International, sia 69esima nel ranking dell'indice di percezione della corruzione, allo stesso livello di Romania, Bulgaria e Grecia. Cosa fanno le medie imprese italiane per intercettare e trattenere i talenti e cosa significano per loro? G-Capital e la School of Management del Politecnico di Milano hanno passato al setaccio 500 medie imprese manifatturiere, restituendo un quadro d'insieme sulla presenza di politiche di talent management. I risultati lasciano a desiderare. Solo il 6% ha un sistema strutturato di gestione dei talenti. Le idee non sono chiare neppure su cosa sia il talento. Gli strumenti di recruiting più usati sono ancora quelli tradizionali. I canali di ricerca principali sono le autocandidature e le società di ricerca e selezione. Tuttora pionieristico il ricorso alle società di recruitment online e ai social network professionali. In generale, nella ricerca di personale prevale un'ottica di breve periodo. Poi però non stupiamoci se i nostri giovani migliori emigrano. C'era una visione del futuro che era incerta, era senza prospettive e anche dal punto di vista economico non c'era una visione nel futuro. Quindi avevo voglia di cambiare, di avere una nuova esperienza, e quando ho avuto la possibilità l'ho colta al volo. Paolo Faleschini, 39 anni, è un architetto 3D a lavoro a Rotterdam, una delle capitali europee del design. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. Tra il 2008 e metà 2014 in Italia sono andati persi 1,2 milioni di posti di lavoro. Siamo il secondo paese in Europa per impieghi scomparsi, lo denuncia la Commissione Europea. Solo la Spagna ha fatto peggio. Le politiche per affrontare la bassa occupazione dei giovani sembrano limitate in Italia, che ha anche il numero più basso d'Europa di laureati tra i 30 e i 34 anni, un fattore che incide sulla disoccupazione giovanile e che necessita di ulteriori sforzi, attacca Bruxelles. Per la commissaria al lavoro Marianne Thyssen, i paesi che hanno investito in istruzione e formazione hanno visto il trend dell'occupazione migliorare. E sempre in tema europeo, una segnalazione. È attivo da alcuni mesi il progetto comunitario Youth to Work, una piattaforma online dove i giovani inattivi possono seguire corsi interattivi per migliorare la propria formazione e acquisire competenze in grado di facilitare la ricerca di lavoro. Tutte le info su youth2work.eu. Un'esperienza all'estero può potenziare skills e curriculum degli under 30 a caccia di occupazione. Un sondaggio dell'associazione Gap Year ha registrato progressi significativi o decisivi in 8 casi su 10 per tutte le caratteristiche richieste dalle aziende, senza contare i balzi in avanti rispetto ai deficit più diffusi: lingue straniere, esperienze extracurricolari, visione più internazionale e meno domestica della ricerca di impiego. La fuga dei cervelli riguarda anche i futuri progettisti delle nostre città. Ben il 50% dei laureati in ingegneria e architettura dichiara di essere decisamente disponibile ad accettare un impiego all'estero. Il dato viene confermato dal sistema Excelsior.

molte volte non vengono considerati, non vengono letti, quindi la presenza fisica può sicuramente aiutare. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un capo unità ad Eurelectric, Union of the Electricity Industry, sede di Bruxelles, richiesta laurea in economia ambientale o ingegneria, scadenza per CV 30 gennaio, info su eurelectric.org. Un addetto stampa alla Hertie School of Governance a Berlino, scadenza per CV domani, info su hertie-school.org. Infine una posizione postdoc in biologia computazionale alla KTH, Royal Institute of Technology di Stoccolma in Svezia, scadenza per i CV 31 gennaio, info su kth.se. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Oggi ci occupiamo di un libro che fornisce indicazioni utili sui 30 migliori paesi al mondo dove andare a vivere, per motivi di lavoro o piacere. Ai nostri microfoni Claudio Bosaia, autore di Dove scappo. Per cominciare siamo partiti dalla sua domanda iniziale: perché scappare se l'Italia è il paese più bello al mondo? Possiamo dare magari due tipologie di risposte, una un po' più pessimista e l'altra magari più positiva, più ottimista. Quella pessimista è che evidentemente molti italiani non trovano più le condizioni minime indispensabili per vivere decentemente nel nostro paese. Se invece la vogliamo vedere dal punto di vista più positivo, magari possiamo vederlo in ambito europeo e possiamo dire che la nostra nazione non è più solo l'Italia, è anzi l'Europa, e quindi è giusto e normale che i nostri cittadini si muovono al di fuori dei confini italici in altri paesi europei, un po' come fanno gli statunitensi. Il tuo libro è anche un po' una guida verso quelli che definisci i 30 migliori paesi verso cui espatriare per lavoro o piacere. Allora, senza elencarli tutti, però, quali sono questi migliori paesi? Dal punto di vista lavorativo, forse diremo una banalità, ma come al solito sono i paesi nordici, sia nel nord Europa che nel nord del continente americano. Quindi se parliamo di Europa, rimaniamo come al solito in Norvegia, in Svezia, addirittura in alcune statistiche compaiono paesi molto più a nord come la Finlandia, addirittura l'Islanda. Invece per quanto riguarda il continente americano, ovviamente Stati Uniti e Canada, forse più il Canada che gli Stati Uniti, ecco. C'è una correlazione però tra professione e dove andare? Sì, chiaramente c'è. Adesso stabilire un'equazione quasi matematica per sapere automaticamente in base alla professione che si può svolgere qual è il paese migliore è effettivamente difficile, però possiamo generalizzare e dire che di sicuro le professioni tipicamente italiane, quindi legate al design, alla moda, alla cucina, sono apprezzate ovunque. Il tuo è un manuale, possiamo dire, però qual è il consiglio più importante che ti senti di dare a chi sta progettando, chiamiamola pure, una fuga dall'Italia? Il primo consiglio che mi darei è conoscere il più possibile in anticipo il paese dove hai intenzione di espatriare. Scrivendo il libro, che idea ti sei fatto dell'identikit degli immigranti italiani oggi? Mi sono fatto, se devo essere onesto, un'idea positiva, cioè credo che i migranti, soprattutto giovani di oggi, abbiano una marcia in più. Per maggiori informazioni, Dove scappo, di Claudio Bosaia, Iacobelli Editore. Un motivo per restare o tornare. Quattro cervelli con una lunga esperienza di ricerca all'estero sono rientrati in Italia grazie al cofinanziamento del MIUR nell'ambito del piano Rientro Cervelli e del programma Giovani Ricercatori Montalcini. Sono stati chiamati dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dove continueranno gli studi e le ricerche. Intanto il nuovo bando Montalcini punta ad assunzioni agevolate contro la fuga di cervelli. Fissati anche in questa edizione 24 contratti destinati ad attrarre giovani studiosi italiani e stranieri impegnati stabilmente all'estero. Lo stanziamento è di 5 milioni. Il MIUR chiederà anticipatamente agli Atenei la disponibilità ad assorbire i vincitori del programma Montalcini nel caso dovessero abilitarsi durante il periodo del contratto di ricerca. Per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.sole24ore.com/blog/nava. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Expo Talenti. Dibattetene in 140 caratteri.